Questo discorso del professor Thomas Szasz fu pronunciato il 25 settembre 2003 presso l'Istituto Cato di Washington, D.C. L'Istituto Cato, fondato nel 1977 da Edward Crane, è una fondazione non a scopo di lucro finalizzata alla ricerca sulle politiche sociali. Thomas Stephen Szasz è professore di psichiatria emeritus presso lo Health Science Center State University di New York, Syracuse. La sua opera principale, Il mito della malattia mentale, risalente al 1961, lo ha reso il più celebre critico della psichiatria. Tra le sue opere pubblicate in italiano ricordiamo Il mito della malattia mentale, I manipolatori della pazzia, Schizofrenia, simbolo sacro della psichiatria, Disumanizzazione dell'uomo, ideologia e psichiatria, La schiavitù psichiatrica, Il mito della psicoterapia, L'etica della psicoanalisi, Karl Kraus e i medici dell'anima, Legge, libertà e psichiatria, Sesso a tutti i costi, Farmacrazia, medicina e politica in America, La battaglia per la salute, Il mito della droga, L'incapace, lo specchio morale del conformismo. La traduzione dall'inglese del testo della conferenza è stata realizzata da Tristano Aimone, presidente dell'Osservatorio Italiano sulla Salute Mentale, con la supervisione del professor Thomas Szasz. Il testo sarà letto da Saverio Tommasi, attore professionista, regista e mattatore della compagnia teatrale Saverio Tommasi, con la quale viaggia lungo il perimetro italiano alternando spettacoli di teatro civile e comicità. Saverio Tommasi è presente su internet all'indirizzo www.saveriotommasi.it. Per la registrazione si ringrazia Stazione di Confine di Firenze per la concessione gratuita della sala di registrazione. Il file audio originale in lingua inglese è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Istituto Cato. Per ulteriori dettagli, visitare la sezione risorse nell'area inglese del sito www.oism.info. L'Osservatorio Italiano sulla Salute Mentale desidera ringraziare il professor Thomas Szasz per aver concesso la traduzione in italiano della presente conferenza e la sua divulgazione gratuita. Ringraziamo altresì per la loro collaborazione il dottor Claudio Aimone, la dottoressa Monica Schaffer e Luca Bistolfi. Tutte le persone che hanno prestato la loro opera a questo progetto lo hanno fatto a titolo gratuito. Voglio ringraziare l'Istituto Cato per avermi invitato qui oggi a parlare. Questo è un argomento che mi sta molto a cuore e voglio chiarire molto, molto bene i parametri entro i quali parlo. Tradizionalmente e storicamente la psichiatria veniva chiamata mad doctoring, cura dei pazzi. L'intera impresa ha solo 300 anni e sin dal principio, proprio ai suoi albori, fu un'istituzione statale. E tenete a mente che gli ospedali psichiatrici venivano chiamati ospedali statali. Il secondo aspetto della psichiatria consisteva nel fatto che essa, per usare un linguaggio libertario, avviava la violenza, in quanto recludeva persone che non erano colpevoli di alcun crimine. Sotto questo aspetto era il prototipo della carcerazione preventiva. Era finalizzata all'incarcerazione di persone considerate, tra virgolette, pericolose per la società. Il linguaggio impiegato oggi nelle leggi di salute mentale è pericoloso per se stesso o per gli altri. Voglio distinguere nettamente tutto questo da ciò che la maggior parte delle persone crede sia la psichiatria, comunque molto meno oggi che non 30 o 40 anni fa. Ossia, ritengono la psichiatria una parte della medicina che aiuta le persone, citando come esempio la psicanalisi. Direi che da un medico o da uno psicologo a pagamento parli con lui e se non ti piace te ne vai. Non sto assolutamente parlando di questo. Sto parlando della psichiatria, i cui interventi paradigmatici sono violenza. Consentitemi ora di spiegarvi cosa intendo dire con ciò. Cosa distingue i chirurghi dagli altri medici? Che tagliano nel corpo. Qualcuno che non tagliasse nel corpo non verrebbe generalmente ritenuto un chirurgo. Cosa distingue un radiologo dagli altri medici? Che scatta fotografie, lastre a raggi X, le interpreta e via dicendo, e tralasciamo qui le altre sue mansioni. Ora, cosa distingue gli psichiatri dagli altri medici? Primo, che incarcerano la gente, privano della libertà persone che non hanno commesso crimini. Questo viene chiamato TSO, trattamento sanitario obbligatorio, civil commitment, negli Stati Uniti. E poi vi è l'operazione simmetrica, ossia la soluzione giuridica per incapacità di intendere e volere, negli Stati Uniti chiamata Insanity Defense, che praticamente nessuno ricollega al trattamento sanitario obbligatorio. Ma io insisto, è la stessa cosa. Nel primo caso persone innocenti vengono incarcerate, nel secondo persone colpevoli vengono scagionate. Il fatto che di solito entrambe vengano incarcerate è marginale, il punto è che vengono scagionate. E a mio avviso, e anche in questo caso è raro che venga ravvisata questa associazione, la difesa fondata sull'infermità mentale, che è il nocciolo della psichiatria da 300 o 400 anni a questa parte, è alla base delle cause di risarcimento contro l'industria del tabacco e cause affini. Quest'idea, secondo cui gli attori individuali sul palcoscenico della vita non siano attori ma burattini, dei cui movimenti è responsabile qualcun altro. Scopriranno chi è quel qualcun altro e puniranno lui. Come ebbe inizio tutto questo? Nella bozza di conferenza che ho inviato all'Istituto Cato ho menzionato 3 cose. Perché la psichiatria costituisce una minaccia per la libertà e la responsabilità. Questo l'ho appena descritto. Come si è arrivati a tutto questo? Questo punto è molto più difficile da condensare. Ma consentitemi di ricordarvi a questo proposito che la nascita della psichiatria e del suo sviluppo, come molti di voi già sapranno, sono paralleli al declino della religione e che le cose che furono controllate fino al XVII secolo, in verità fino all'illuminismo, il XVII secolo essendo una linea di demarcazione, dicevo, le cose che venivano controllate dalla religione quale sistema di convinzioni e organizzazione sociale e dall'alleanza tra Chiesa e Stato, furono gradatamente consegnate alla psichiatria. Anche qui mi limiterò a fornire solamente un esempio. Qual è in teoria? Oggi lo è soltanto più in teoria, a differenza del passato. Uno dei più grandi peccati nella religione giudaica e in quella cristiana. Il suicidio. Ai tempi in cui Chiesa e Stato si equivalevano, il suicidio veniva punito severamente. Vi domanderete come sia possibile punire il suicidio. Ebbene, è una lunga storia. Ma non mi dilungherò sull'argomento. Una delle punizioni consisteva nel fatto che il corpo non veniva sepolto in terreno consacrato. Inoltre, il patrimonio di quella persona veniva confiscato e via dicendo. È una storia complessa. Quindi, questo divenne il pretesto principale per il ricovero psichiatrico nel lontano XVIII secolo. Se commettevi suicidio, questo significava che eri fuori di testa. Di nuovo, è una lunga storia. Ma l'intera idea della soluzione per infermità mentale venne in principio introdotta dopo la morte, per le persone che commettevano il suicidio, e solo più tardi venne impiegata per le persone ancora in vita che avevano ucciso o tentato di uccidere qualcuno, un re o un primo ministro. È così che si sviluppò. E senza dubbio, oggi pressoché tutti i peccati sono malattie mentali o trattati come se fossero malattie mentali. Un tempo il mangiare troppo veniva chiamato golosità, ora viene chiamato disturbo dell'alimentazione e così via. Potete completare voi la lista. Dato che questo mi è talmente ovvio e sottolineo che lo era già molto prima che iniziassi la scuola di medicina, qual è stata la risposta libertaria a tutto ciò? Questa questione mi ha affascinato per molto tempo, poiché quali sono i 2 principi libertari fondamentali? Se esaminerete la letteratura troverete sempre che, così come in psichiatria troverete sempre la frase malato di mente, malattia mentale è ovviamente uno di questi termini in chiave, e ritornerò su questo punto, è una metafora chiave, molto simile alle metafore religiose che, come sapete, si è tenuti a menzionare, ma non è dato di pensare cosa significhino. Ma quando la si menziona è ovviamente qualcosa di molto male, che giustifica ogni tipo di provvedimento. Quali sono i 2 principi libertari? La proprietà di sé, risalendo a Locke e tutto il resto, e la non aggressione, che non si avvii l'aggressione tranne che per difesa personale. In questi 2 ambiti, la psichiatria è il più famigerato criminale contro il libertarismo, in una maniera ancor più ovvia che non i principi economici, anche se questi paragoni non sono precisi, poiché sono coinvolte questioni di tipo diverso. Le normative economiche, il sistema economico, incidono potenzialmente e spesso di fatto su ogni membro nella società, ma incidono in una maniera meno diretta che non il poliziotto che arriva magari con un'ambulanza, ti ammanetta e ti conduce in un posto chiamato ospedale, nel quale verrai rinchiuso per sempre. Il fatto che oggi vi scarcerino dandovi psicofarmaci, di questo possiamo discuterne. Sarò lieto di affrontare l'argomento. Il punto è che questo è un potere arbitrario, che allo stato attuale tocca potenzialmente tutti. Vale la pena ricordare come tutto questo si sia diffuso, poiché questi principi come questi, storicamente non stanno fermi, dilagano. Questo principio di violenza giustificata, il quale trova ovviamente tremendi parallelismi con la violenza politica, voglio dire, qual è la frase standard con cui gli psichiatri giustificano l'incarcerazione delle persone? Dicono che stanno cercando di aiutare la persona. Ora è malato di mente, è fuori di testa e dopo che l'avremo curato, qualsiasi cosa possa significare cura, elettroshock, lobotomia, psicofarmaci o quant'altro. E quando sarà guarito, via, a casa, è in un ospedale, non in un carcere. Quindi, questa non è una questione teorica. Lo stiamo curando e dopo che l'avremo curato, gli avremo restituito la libertà. Beh, questo è esattamente ciò che oggi ci dicono dell'Iraq. Li abbiamo liberati, ma laggiù si sentono forse tutti quanti liberati. È precisamente questo che la gente dice: stanno liberando il paziente dalla sua psicosi. Questo è quel che troverete scritto in qualsiasi testo di psichiatria. Questa è una di quelle proposizioni a cui potete credere o no, poiché non possiede alcun contenuto intellettuale, se non il negare alla persona reclusa la propria capacità quale agente umano. Questa fu anche la spiegazione razionale per la schiavitù. Fu la spiegazione razionale per negare i diritti alle donne e giustificarne la sottomissione. Se leggerete lo stupendo libro di John Stuart Mill sulla sottomissione delle donne, scoprirete che l'autore si domanda: com'è che le donne oggi, nel 1860, non sono trattate alla pari? Perché non possono votare? Perché non possono avere possedimenti se sono sposate? Come spiegava questo la gente? Lo spiegava così come lo spiega la psichiatria. Ci stiamo prendendo cura di loro, li stiamo proteggendo da un fardello. Questo è ciò che si sente dire: proteggere le persone dal fardello della malattia mentale. Nonostante le mie critiche, non sono insensibile verso la malattia mentale, la quale ovviamente non esiste, ma la sofferenza umana esiste. E la gente oggi la chiama malattia mentale. Questa sofferenza è più che reale. Ritengo che queste persone dovrebbero essere aiutate, ma alle loro condizioni. Altrimenti l'aiuto cessa di essere aiuto, altrimenti l'aiuto diviene coercizione. Di nuovo, ci troviamo di fronte ad una questione di linguaggio comune. Potete asserire che la persona non è attualmente in grado di prendersi cura di se stessa. Questo è ciò che diciamo dei nostri figli. Ritengo questo tipo di coercizione appropriata, nonché inevitabile nell'ambito familiare. Non chiedi certo alla tua figlioletta di 2 anni se vuole un vaccino. Cerchi di persuaderla all'idea parlandole, gestisci la cosa in modo delicato, ma è comunque coercizione. Ti stai prendendo cura dei figli fino a che non saranno in grado di badare a se stessi. Ma a che punto? E questo è un rebus sociologico legale comune. A che punto la società dice: ora sei cresciuto, ora sei responsabile di ciò che fai e sei libero fin tanto che non violi la legge, dando per scontato che la legge non sia una legge stupida oppure una legge palesemente antilibertaria. La psichiatria è riuscita ad annichilire interamente questa proposizione, poiché ognuno è potenzialmente, per tutta la vita e anche dopo la morte, dichiarabile malato di mente. E questo poi si trasforma in una battaglia legale e in un'operazione totalmente corrotta. Ovvero, quando persone molto ricche vogliono diseredare un parente, probabilmente riusciranno a far annullare il testamento se sono abbastanza furbe, dispongono di fondi sufficienti e si affidano a buoni avvocati. L'unica vera questione in ballo è quanto ci guadagneranno. Questo è molto simile alle cause contro le multinazionali del tabacco. Ed è per questo che io considero tutta questa ideologia psichiatrica totalmente nemica dei principi libertari e della libera società, ed inconciliabile con essi. Dove voglio arrivare con questa proposizione? A qualcosa che dissi, penso per la prima volta, 40 anni fa. Non è necessario scoprire l'acqua calda per affrontare questa questione, poiché è tutto molto simile a ciò che è già accaduto nella storia, con la stregoneria, con l'inquisizione, con la schiavitù. Le manovre di tutti questi sistemi di controllo dipendono dall'esistenza del sistema, storicamente la Chiesa, con lo Stato. Quindi, qual è la risposta? Separare Chiesa e Stato. Allora i preti potranno fare ciò che vogliono fin tanto che non siano in grado di incarcerarti, fin tanto che sia consentito prendere ed andarsene, fin tanto che si possa dire: ciao, non voglio che tu mi salvi l'anima, non voglio che tu salvi il mio corpo, non voglio che tu salvi la mia salute mentale, ciao. Ma lo Stato ora è la psichiatria. E molto più, secondo me, di quanto la religione fosse l'America nel 1776. Il National Institute of Mental Health è oggi indistinguibile dallo Stato americano, a prescindere dal suo colore politico, repubblicani o democratici che sia. L'assistenza sanitaria, come avete già potuto constatare con Hillary Clinton durante lo Hillary debacle, è la vera cosa. La difesa in realtà è secondaria, poiché... difesa! Insomma, siamo già i primi al mondo, chi mai ci sconfiggerà? Quindi è ormai una questione secondaria. Tradizionalmente la difesa è stata la questione primaria, e tradizionalmente la maniera principale per privare le persone della libertà consisteva nel lanciare un singolo appello. Come afferma Robert Higgs nel suo eccezionale libro, ha scritto un intero libro su questo argomento, basta che diciate due parole: emergenza nazionale, e potrete fare qualsiasi cosa. Oggi basta dire emergenza psichiatrica. Chi ti fermerà? Vi è solo una cosa che ovviamente frena le persone. L'unico deterrente in questo tipo di manovre è la classe sociale. Tutto sommato, come sempre d'altronde, con ogni legge, la violenza di tutte le leggi pesa più sulle persone povere che non su quelle ricche, più sulle persone stupide che non su quelle intelligenti. Quindi, entro certi limiti, se appartieni ad un ceto sufficientemente elevato e non sei così ingenuo da non capirlo, allora puoi proteggerti, indipendentemente da quanto sei, tra virgolette, pazzo. E di nuovo i quotidiani ci intrattengono con simili storie, giorno e notte. Questo esempio è datato, ma lo cito poiché è stato uno dei più drammatici durante il corso della mia vita. È la storia di Howard Hughes. Forse molti di voi qui presenti sono troppo giovani per ricordarsi questa storia, ma Howard Hughes era quest'uomo incredibilmente ricco e di bell'aspetto, che da giovane corteggiava attrici bellissime, pilotava aerei e via dicendo. Non invecchiò altrettanto bene, comunque, divenne alquanto pazzo. Egli, per esempio, era talmente folle da pretendere che coloro che gli telefonavano in New York indossassero una maschera per non infettarlo al telefono. E siccome era talmente ricco da essere circondato da servitori, inviava spie per appurare che questa sua disposizione fosse rispettata. Costui era un uomo sofisticato dal punto di vista intellettuale, non si trattava di una carenza di nozioni in batteriologia. E negli ultimi anni della sua vita viveva in un albergo a Las Vegas. Questa è una storia vera, narrata dai suoi biografi. Ormai non si lavava più. Si lasciava crescere le unghie di una lunghezza incredibile, Dio sa quanti centimetri. E in genere sembrava uno spaventapasseri. La sua stanza cominciò a puzzare, così che gli altri ospiti si lamentarono con la direzione dell'albergo. Dovevano prendere provvedimenti. Beh, non chiamarono gli psichiatri, né chiamarono la polizia. Parlarono invece con il signor Hughes, il quale comprò l'albergo e sbatté fuori tutti i clienti. Tutto sommato, questa è una storia che si ripete. Vi sono eccezioni a questo. Quando accade all'interno della famiglia, quando la persona bersagliata è un figlio relativamente indifeso. Il più terribile esempio di questo è Rosemary Kennedy, che venne lobotomizzata. Di nuovo è un esempio che si trova dietro l'angolo. Alcuni membri della famiglia sono ancora in vita e lei, la sorella del senatore Kennedy, per quanto ne so, è ancora viva e vegeta. Secondo gli storici, neanche sua madre ne era a conoscenza. Tutto venne organizzato dal padre Joseph Kennedy. Perché? Perché lei andava a letto con tassisti e altri uomini di basso ceto, mentre lui era ambasciatore USA a Londra per la corte di St. James. Quindi a questo punto subentra un altro termine operativo che dobbiamo tenere a mente: imbarazzo. Perché le persone vengono rinchiuse? Perché imbarazzano gli altri, specialmente in famiglia, ma può anche accadere sul lavoro, nella società, sapete com'è? Andarsene a spasso per le strade nudi è motivo di imbarazzo, è una violazione della legge. Mi sono concentrato sui punti cruciali. Inutile dirlo, potrei dilungarmi molto di più su tutto questo, ma consentitemi di terminare enfatizzando la differenza tra la pratica privata della psicanalisi e la psichiatria. Quando crebbi a Budapest, la psicanalisi era già un qualcosa di popolare, sia positivamente che negativamente. Era oggetto di discussione, direi che ne conoscevo buona parte già quando ero adolescente. E una cosa era del tutto chiara allora, mentre invece non è per nulla chiara oggi, a qualsiasi giovane psichiatra. Se gli chiedete chi era Freud, egli risponderà che era uno psichiatra viennese. Questa è proprio una cosa che Freud non era. Potreste pensare sia una questione semantica. Non è una questione semantica. Uno psichiatra era un medico assunto dallo Stato e che lavorava in un ospedale psichiatrico statale. Questa era la definizione data. Vi è mai passato per la mente che tra il 1900 e il 1920, in Austria, in Ungheria, in Germania, anche in Germania in quegli anni, la maggior parte, se non tutti, i famosi psicanalisti erano ebrei? Non vi era invece un singolo psichiatra famoso che fosse ebreo, per lo stesso motivo per cui non vi erano generali che fossero ebrei, né primi ministri. Si trattava di un lavoro statale, tenuto in elevata considerazione, in parte risultato di raccomandazioni, in parte ricompensa per la propria conoscenza. Chi erano i professori? Kraepelin a Berlino, Bleier a Zurigo, e via dicendo, erano tutti non ebrei. Freud non lavorò mai presso un ospedale psichiatrico statale. Lui non era uno psichiatra. Secondo punto. Che cosa caratterizza la psichiatria? E qui di nuovo il mio precoce interesse per l'economia si dimostrò indubbiamente utile. Guardatela dal punto di vista puramente economico. La psicanalisi è, anzi era, ora è tutto cambiato così che è completamente pasticciata. La psicanalisi era il paradigma del contratto privato. Era esattamente come stipulare un contratto con un insegnante di lingua. Questo era il paragone offerto da Freud. All'epoca era alquanto diffuso tra le famiglie benestanti, specialmente in paesi come l'Ungheria, ingaggiare un maestro privato che venisse ad insegnare ai bambini il tedesco o il francese, l'inglese. Questa persona veniva, i genitori la pagavano, qualunque fosse la tariffa, e lei insegnava l'inglese. E qualora una qualsiasi delle due parti contraenti avesse voluto smettere, per qualsivoglia ragione, allora smettevano. Questa era la psicanalisi. Questa analogia del maestro d'inglese è importante. Era l'analogia proposta da Freud. Perché, in fondo, tutti i pazienti di Freud appartenevano ad una classe sociale molto più elevata rispetto alla sua ed erano molto più ricchi. Non ci voleva tanto, poiché Freud era estremamente povero. E questo veniva pagato dalle tasche del consumatore e vi era anche riservatezza. Ciò che caratterizzava l'ospedale psichiatrico statale era che non avevano luogo transazioni monetarie. Il dottore era un impiegato statale che percepiva uno stipendio, anche se magari al lato svolgeva qualche attività in privato. Ma i pazienti dell'ospedale psichiatrico statale a quei tempi erano come i carcerati in una prigione. Questo rientrava nei costi gestionali dello Stato per proteggersi, esso lo Stato, dagli elementi disturbanti. Cosa potrebbe essere più diverso di queste due imprese? Beh, ora si sono fuse. Si sono fuse con il risultato che svariati nuovi principi giuridici sono entrati in vigore. Questi sono termini semitecnici in psichiatria e legge. Uno è chiamato il dovere di proteggere. Dovere di proteggere significa che se qualunque professionista della salute mentale, ma in genere uno psichiatra, a un paziente che uccide qualcuno mentre è in cura, poco importa se uccide se stesso o terzi. Lo psichiatra è passibile di denuncia per negligenza, una causa che non ha praticamente modo di vincere, perché è suo dovere proteggere il paziente. Pericoloso o meno che sia, ho portato con me dei ritagli di giornale su una persona che, mentre era in cura, ha commesso un omicidio, è finito in carcere ed ha denunciato gli psichiatri per non avergli impedito di uccidere ed ha ottenuto un risarcimento di $300,000. Come afferma squisitamente Richard Weaver, le idee hanno conseguenze. Queste idee hanno conseguenze. Quindi il dovere di proteggere, come anche il secondo principio di cui avrete probabilmente sentito parlare sui quotidiani, il diritto alla cura, che entrò in scena ancor prima. Il diritto alla cura venne introdotto già negli anni 60 come risposta sociale, psichiatrico, legale alle lamentele circa le centinaia di migliaia di persone che languivano negli ospedali statali senza ricevere cure. Ovviamente non ricevevano cure poiché tutti sapevano che non erano malati, ma questo era un segreto, era una cosa non detta, non lo si poteva dire. Gli psichiatri sapevano benissimo che quei pazienti non erano malati e se si fossero ammalati avrebbero chiamato un medico. La classe medica ha ammesso che il peggior posto in cui ammalarsi, intendo dire ammalarsi sul serio, è in un ospedale psichiatrico statale, perché nessuno ti crederà. Quindi il diritto alla cura implica che si può oggi violare l'integrità fisica e mentale delle persone, oggigiorno prevalentemente somministrandoli psicofarmaci coercitivamente, come esemplificato dalla cosiddetta assistenza psichiatrica territoriale, negli Stati Uniti chiamata Outpatient Commitment. Ai vecchi tempi, se non ti trovavi in un ospedale psichiatrico, eri libero, potevi sfuggire al sistema. Per esempio, se vivevi a Chicago, potevi andartene a New York ed eludere il sistema. Oggi non è più possibile sfuggire al sistema, è nazionalizzato e si ha il diritto alla cura. Lo sapete, se siete sottoposti ad assistenza ambulatoriale e non vi fate vivi, vi verranno a prendere. Essenzialmente vi trovate in una condizione potenziale di libertà vigilata a vita. E ora un ultimo pensiero, poi ho concluso. Alla base di tutto questo pensiero vi è qualcosa che è divenuto completamente inaccettabile al pensiero progressista. E non intendo progressista nel senso politico del termine. Ciò che oggi è considerato scienza, anche in medicina, anche nelle riviste scientifiche. Tutta la mia proposizione dipende dalla rivendicazione che vi è una differenza tra ciò che chiamiamo, che un tempo chiamavamo malattia, come il cancro, le malattie cardiache, la pressione alta, la cirrosi epatica o un raffreddore. Vi è una differenza tra queste cose e i fenomeni che esemplificavano, e tuttora esemplificano, la malattia mentale, ovvero le allucinazioni e il delirio, o anche solo i cattivi comportamenti, come mangiare troppo o troppo poco, come l'anoressia e via dicendo. Cosa sono dunque le allucinazioni e il delirio? Vedete, ci troviamo di nuovo di fronte a termini tecnici sui quali non si dovrebbe riflettere. Le allucinazioni sono, tra virgolette, sentire le voci. Ma cosa sarà mai sentire le voci? Qual era la cosa che hai ritenuto a fare se eri religioso? È ritenuto a prestare ascolto alla voce di Dio. Questo è il motivo per cui ho più volte detto che se vai in chiesa e parli a Dio, questo viene chiamato preghiera. Ma se esci dalla chiesa dicendo che Dio ti parla, questo viene chiamato schizofrenia e ti rinchiudono. Deve essere necessariamente una conversazione telefonica a senso unico. E cos'è un delirio? Sostenere che esistono armi di distruzione di massa? Oppure sostenere che non esistono armi di distruzione di massa? Vedete, un delirio è semplicemente una convinzione erronea. Secondo questa definizione tutti hanno deliri, sempre. Quindi il concetto è tale da poter essere applicato ad hoc alle vittime, che di conseguenza non potranno difendersi. Come fai a provare che non sei affetto da delirio? Tu lo neghi! E come farai a provare che non commetterai il suicidio? Neghi di essere depresso, perciò è un circolo vizioso, non vi sono scappatoie. Consentitemi di sottolineare che non mi sto riferendo ai contratti volontari. Ed è per questo che la soluzione semplice consiste nel separare la psichiatria dallo Stato. Perché questo significherebbe che, proprio come per la religione, chiunque voglia intraprendere la psicoterapia, e cosa essa sia non è l'argomento di oggi, ed è disposto a pagare per averla, stipulerà un contratto volontario, non diverso dall'elargire soldi alla Chiesa o a chiunque altro. La coercizione psichiatrica è un crimine. Fine della storia.